Stiamo a vedere, gli sviluppi certo ci saranno in questa Pasqua non simpatica per la Lega. Noi parleremo anche di calcio scommesse alle 8.30, Masiello, che è quel giocatore del Bari che ha ammesso di aver fatto un autogol apposta per 250.000 euro, accusa, pare che voglia parlare, pare che voglia vuotare il sacco, ci sono intercettazioni anche qui. Ce n'è una, per esempio, il tentativo di contattare l'attuale allenatore della Juventus, Antonio Conte. C'è un SMS in cui due delle persone indagate dicono: prova a contattare Antonio Conte, quando era allenatore del Siena, per vedere se in qualche modo è contattabile, diciamo così. Però dopo due giorni pare che sia arrivata la risposta di questa persona dicendo: ho provato a contattarlo, inutilmente gli ho mandato un SMS. C'è un tentativo di anche agganciare Antonio Conte. Fammi sapere se Conte è contattabile. Questo infatti è il titolo a pagina 20, ma pare che ci sia dentro anche Milan-Bari tra le partite dell'anno scorso, anche qualche partita di quest'anno. Insomma, una vicenda davvero che sembra allargarsi a macchia d'olio. Come voglio concludere, ho pochi secondi, concludo con un'inchiesta che sta sfiorando l'ex ministro Paolo Romani, del ministro del governo Berlusconi, indagato per il telefono scroccato al comune. E Romani che fa? Accusa la figlia. Lo racconta Libero a pagina 13, la vicenda di un telefonino intestato alle istituzioni a Paolo Romani come assessore al comune di Monza. È una vicenda che ha tirato fuori un giornale locale, il Giornale di Monza, che ha indagato perché a quel telefono rispondeva sempre Lucrezia Romani, la figlia dell'ex ministro, al che alla decima telefonata del Giornale di Monza in cui risponde la figlia dice: perché lei ha questo telefono intestato a suo papà e pagato dai contribuenti? E da lì è nata l'inchiesta. Romani accusa la figlia, accusato di peculato, 2.500 euro al mese la bolletta della figlia. Però lui si difende così: è colpa di mia figlia. 24 mattino. Ritrovati da Alessandro Milan alle 8:20 minuti. Allora, il terremoto che sta coinvolgendo la Lega, con l'ex tesoriere Belsito indagato da tre procure, e oggi è pieno sui giornali di stralci di intercettazioni che davvero, insomma, sono un po' inquietanti. Ne vogliamo parlare con il sindaco di Treviso e segretario anche della Lega in Veneto, Giampaolo Gobbo. Sindaco, buongiorno. Sì, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Intanto chiariamo subito la sua posizione su questo, perché c'è chi si divide tra complottisti all'interno della Lega. No, è un complotto secondo lei o è inquietato come molti leggendo quello che può leggere? Ma al di là del concetto di complotto, io dico comunque che era già uscita questa notizia ancora mesi fa, si sapeva che c'erano in corso delle situazioni particolari e di questo un po' forse qualcuno se lo aspettava. Poi dire complotto, certamente io posso dire che comunque a un mese dal voto una situazione così, per carità, dopo ci sono anche tante altre situazioni che possiamo anche riverificare, ma comunque se ci sono effettivamente situazioni di questo tipo è evidente che sono situazioni personali delle quali chi ha delle responsabilità dovrà certamente prendersene la colpa. Però io non so se lei ha già visto, so che è molto mattiniero, se ha già visto i giornali nazionali, ci sono stralci di conversazioni in cui l'ex tesoriere Belsito parla con la segretaria da grada della Lega e il tema è: sì ma tu guarda, di pure a Bossi che se parli tu viene fuori tutti i soldi che dai a sua moglie, ai suoi figli, le macchine, le case, cioè pare uno spaccato di la Lega usata come bancomat per la famiglia Bossi. Questo ripeto, io questo non sono a conoscenza, questo certamente sono uscite già queste notizie. Io credo che le notizie che escono quando ci sono delle indagini in corso non siano certo l'optimum per quella che è sia l'indagine sia la riservatezza dell'indagine, sia la serietà di quelle procure, per cui anche su questo io andrei con le pinze. Poi ripeto, ci saranno delle, tutte quelle logiche per le quali dovrà ognuno rispondere di quello ma, che è. Ma lei metterebbe la mano sul fuoco per Bossi, cioè dire legge queste cose e dice Bossi no, io non, io... non mai, Bossi non ha mai, non gli sono mai interessati diciamo i soldi per la gestione del partito, se non proprio per quella che è ovviamente la logica di tutto quello che serve per il movimento, e quindi di questo sono su Bossi, sono sicuro. È sicuro, è sicuro, lei è sicura anche di chi gli sta intorno, ripeto, questo cerchio magico, questi, i familiari stessi? Sì. Fare queste definizioni, se si è sicuro, se non è sicuro, io ribadisco. Ci sono stati degli errori, questi ovviamente, se ci sono state del male uso di queste di questi fondi, ovviamente chi li gestiva ne dovrà rispondere. Ma questo sicuramente, ripeto, però vedremo e questo vedremo l'inchiesta. Però sindaco, per quel che mi riguarda non credo ci siano queste tutte queste cose che vengono dette, attribuite, anche se sono stralci di conversazioni telefoniche. So, uno al telefono sapere, dice sì, ma come mai sono già nei giornali gli stralci di conversazione telefonica? E questa è un'altra problematica. No, appunto, forse è questo il problema, io credo. Sì, però non è che sono inventate. Questo non è che sono inventate queste telefonate. No, ma mi permetta, non lo so questo. Mi permetta comunque, quando lei parla di quando lei parla di complotto, allora potrei dire "ma ecco, forse a questo in questa logica potrei dire come mai vengono già fuori tutte queste cose". Ma questa è un'obiezione legittima, è un'obiezione legittima, esatto, uno può dire è un uso mediatico. Esatto, infatti uno può dire è un attacco alla Lega, però queste cose ci sono state dette, sì, per carità, ma questo è un altro discorso. Comunque io ripeto, il simbolo che rappresenta l'ideale di decine di migliaia di militanti oltre appunto a qualche milione di elettori eccetera, il simbolo, poi ripeto, ed è la rappresentanza e rappresenta quello che è l'ideale, quello che è la forza stessa del movimento e della Lega, poi quelle che sono le responsabilità personali, certo. Questo è evidente che saranno le stesse persone a rispondere. Senta, ma tra l'altro Gentilini, il suo vice sindaco, è stato sindaco di Treviso, lei ha detto: io sono un uomo di rigore, per me chi ruba, chiunque sia va buttato, andrebbe buttato nel Sile, cioè il fiume Sile. Per carità. Vabbè. Questo non è una questione del buttato nel Sile, eccetera. Perché la domanda è questa: oggi c'è il Consiglio federale, secondo molti giornali Bossi potrebbe dimettersi o presentarsi come... Secondo lei a questo punto dovrebbe dire, visto quello che esce per il bene della Lega, faccio un passo indietro e si dovrebbe dimettere? Ma io questo non lo so, e questo qua non ne abbiamo ancora parlato. No, ma a suo parere, una situazione del genere. Il mio parere in questo momento è che, ripeto, Bossi non è toccato da questa situazione, perché tante altre cose che sono state fatte Bossi poi le ha ricondotte ad una logica normale. Ricordo ad esempio anche a suo tempo, quando c'è stata una posizione del tutto legittima per un figlio, quando ha saputo che c'era questo, l'ha completamente che situazione? Non ricordo. Ma a suo tempo credo che un figlio fosse stato del resto legittimamente anche inserito in un contesto di assistente, e quindi è su questo, ma non ricordo questa cosa. Non è il problema. Però voglio dire, lei dice non è toccato, ma la vicenda dai giornali, lei dice non è toccato, ma anche Bossi leggerà i giornali, tutti leggono i giornali e tutti oggi leggeranno che secondo le ricostruzioni venivano usati i soldi per i figli di Bossi, per la casa di Bossi. E oggi sentiremo cosa ci dice e cosa ci dirà. Questo è il concetto. Lei ci sarà al Consiglio federale? Certamente, sì. Io comunque non sono per queste soluzioni, perché Bossi è sempre stato alla guida e non è il solo Bossi. Sa, a volte per far piacere magari al, come si dice, al leader, si fa magari anche cose che il leader stesso non sa, solo magari per far piacere a, a chi gli è vicino. A sua insaputa, questa frase, io, a sua insaputa, è un po' da scaiola, è diventata... Non dico a sua insaputa. No, perché io Bossi dico, ha detto, se mi ha messo a posto, se mi ha messo a posto la casa, io non ne so nulla, ha detto così. Allora, io di questo non credo, perché non assolutamente a queste cose non ci credo, di posizioni della casa. La casa è una casa che è da tanto tempo ben sistemata e tutto, non credo proprio sia questo il concetto. Comunque, ripeto, adesso c'è un'indagine in corso e questo certamente ne verificheremo tutte le posizioni. Ma secondo lei è verosimile che Bossi possa anche dimettersi, viste le polemiche? Perché la Lega, ripeto, è Bossi, è sempre stata Bossi, La Lega è certamente, è Bossi la fondata e Bossi la guida, ma certamente la guida assieme ovviamente a tante altre persone, cioè nella segreteria politica c'è Maroni, nella segreteria politica c'è Calderoli e ci sono tante altre persone, cioè non è solo Bossi. Io, quindi non è questo un discorso, ma Bossi visto. Però voi andrete a sentire che cosa vi dice, voi direte delle cose, cioè lei non si sentirebbe di dire: guarda Umberto, vista la situazione, viste le immense polemiche, forse è il caso di cambiare, insomma, di fare un passo indietro, perché qua è un, se no ci travolgono, no, nelle polemiche. No, allora non è questo il discorso, perché è assolutamente una situazione sulla quale sarà Bossi a decidere. Certamente c'è un Consiglio federale e, ripeto, il Consiglio federale dovrà anche scegliere il nuovo amministratore, il nuovo tesoriere, e su questo ci sarà benissimo anche una posizione che potrebbe essere quella di avere, come del resto anche c'era già, c'era di cambiare. A lei sto bel sito, che effetto le fa questo bel sito? Lo conosceva? Certamente aveva dei dubbi mai su di lui? No, questo, il bel sito è stato portato in Lega dall'amministratore precedente, dallo storico Balocchi. Che è morto, e quindi diciamo che era il suo factotum, e quindi era la continuità. Ma lei piaceva? Per la continuità, non è una questione di piacere o meno, perché i rapporti che abbiamo sono ovviamente quelli per quanto riguarda formali. Esatto. Un'ultima cosa le devo chiedere al sindaco: l'accusa, cioè forse che fa più male ai leghisti, anche ai militanti, è sentire le frasi Lega ladrona, cioè voi avete fatto anni e anni tuonando contro Roma ladrona eccetera, e poi vi ritrovate almeno dipinti sui giornali come i partiti, come tutti gli altri partiti, insomma tutti quelli che rubano. Allora, tornando a quel concetto, siamo gli unici che abbiamo presentato ad esempio il disegno di legge per la responsabilità civile dei giudici. Siamo gli unici oggi ad essere all'opposizione a questo governo, siamo gli unici che eravamo oramai arrivati finalmente a quel cambiamento epocale, che era che da spesa storica passare a spesa corrente, quindi si sarebbero bloccati tutti gli sperperi eccetera. È evidente che quando si tocca, comunque è denaro che comunque era legalmente diciamo dato alla Lega per i rimborsi elettorali, questo era del denaro della Lega. È la prima volta comunque che si, ripeto, se poi ci sono altre cose che noi non sappiamo, ma sono le indagini in corso, le vedremo, però è la prima volta che comunque, al di là adesso di quelle che dunque siano finiti o come siano finiti, se a livello personale o meno, però è la prima volta che si va a discutere dove vengono spesi i rimborsi elettorali. Allora, intanto andremo a sentire, sentirete quello che dice Bossi. Certo, non sarà una Pasqua molto molto allegra, sindaco, io però la ringrazio. una Pasqua così, un po' la vostra via crucis la state facendo, diciamo io così. Comunque ringrazio lei. Grazie anche a lei. e ai vostri radioascoltatori vi auguri buona pace. Grazie al sindaco di Treviso Giampaolo Gobbo, anche segretario della Lega. Oggi ci sarà questo consiglio federale della Lega a Milano, dove i giornali dicono Bossi potrebbe presentarsi dimissionario. Allora, pubblicità e meteo. Oggi il Fatto Quotidiano titola in un paese di ladri, con ladri a caratteri cubitali, lo cito perché graficamente colpisce. Poi avremo ospite tra poco un editorialista del Fatto Quotidiano, Oliviero Bea, che si occupa spesso di calcio. Parliamo di quello, il calcio, anche il calcio, insomma, si è scoperto, si sta scoperchiando l'ennesimo vaso di Pandora di un mondo che sarebbe infarcito di marciume, tanto per dirla così. 24 mattino. Allora, l'ennesimo scandalo scoppiato nel mondo del calcio. Io prima ho citato il titolo del Fatto Quotidiano, in un mondo, in un paese di ladri, titolo oggi a caratteri cubitali, certo per altre vicende, quelle di cui abbiamo parlato anche poco fa, le vicende della Lega eccetera, ma in un paese di ladri c'è anche questa del calcio scommesse. Ne vogliamo parlare con Oliviero Bea, che è editorialista del Fatto Quotidiano, ha anche scritto per Rizzoli il calcio alla sbarra. Oliviero, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a voi. Saluto anche l'avvocato Mattia Grassani, che è uno dei massimi esperti di diritto sportivo in Italia. Avvocato Grassani, buongiorno. Buongiorno. Ci aiuterà a capire qualcosa, perché insomma si parla, per esempio, tenete a mente questo tema, responsabilità oggettiva delle società. Tra poco spiegheremo di cosa si tratta. Allora, le ultime novità sono, Oliviero Bea, che Andrea Masiello, quest'uomo che è diventato l'icona anche di colui che ha fatto l'autogol, ammettendo di aver fatto un autogol in una partita sentita sempre, Lecce-Bari, il derby della Puglia, di averlo fatto per soldi. Non era mai successo, c'era successi di giocatori che hanno ammesso, ho venduto le partite, ma uno, ho fatto un gol nella mia porta apposta per soldi, insomma segna quasi un incremento nello scalpore di quello che è tutto legato al calcio scommesse. Però lei scriveva ieri, Bea, che non è solo una vicenda questa dell'autogol sportiva, ma è una vicenda, una sorta di un autogol al paese Italia. Perché? Un autogol all'italiano, un autogol del sistema paese. Perché? Perché il discorso di Masiello è proprio il sintomo di una malattia del calcio, che è legata però in questo frangente al contesto delle scommesse, le scommesse clandestine, legali naturalmente, e abbinate al trucco delle partite, di questo stiamo parlando perché è questo l'oggetto del contendere, ma tutto ciò è inserito in un contesto di scommesse legali che il cui volume d'affari fa girare la testa, e a sua volta questo volume d'affari è inserito in un contesto più ampio, che è quello del gioco d'azzardo di questo paese, che soltanto per il gioco legale nel 2011 ha registrato 76 miliardi di euro complessivi, in crescita, e con tutto naturalmente la parte illegale, delinquenziale, che non viene tenuta in conto, di cui i numeri sono vertiginosi ma non facili da calcolare. Per cui in un paese di questo genere, alla rovina, in cui il gioco d'azzardo è una tassa dichiarata dagli stessi parlamentari, cioè non è vissuta come una tassa dagli italiani, e quindi da questo riscuotiamo, ecco, forse in tutto questo contesto c'è un paese che ha perso la testa, non soltanto un difensore del Bari che la butta dentro e che rende esplicito ciò che è stato implicito per tanto tempo e non ammesso, perché lei dice che nel mondo del calcio si sa, è solo un non voler vedere da parte del tifoso che vuole vedere lo spettacolo pensando che sia tutto a posto. Io ho molta stima di Grassani, e quindi gli rubo, diciamo così, entro con un fallo, se non a gamba tesa, comunque da espulsione, da ammonizione. Spero di rischiare solo ammonizione, non è un fallo da dietro ma di fianco, e poi prendo il pallone soprattutto. Ebbene, quante volte lo stesso Grassani, ma le stesse istituzioni sportive, i dirigenti di club, naturalmente i calciatori a tutti i livelli, a cena hanno parlato di partite che erano andate in un certo modo, da sempre. Il problema è che adesso, io l'ho scritto ieri, che si sono incontrati, si sono proprio intrecciati i due percorsi, il percorso del di quel da sempre di un calcio che soprattutto nelle fasi finali del campionato subiva un trattamento diverso, partite scambiate, comprate, vendute e via dicendo, e con questo volume d'affari delle scommesse, le due cose hanno prodotto il fenomeno. Sì, laddove ci sono le scommesse legali, questo ha incentivato la facilità di scommettere magari con un click anche da Singapore, da Hong Kong, dall'Australia, con un click uno scommette legalmente, e quindi questo fa gola. È proprio così, c'è un testimone, Arrigo Sacchi è una persona per bene, che io stimo, mia amica, via dicendo, fa il testimone delle scommesse, non di quelle collegate alle partite truccate. Quelle legali, certo. Quelle legali, però questo normalizza uno Stato al quale viene obiettato, dice ma dappertutto, in tutto il mondo si scommette, grazie, ho capito anch'io, però ecco il risultato. Il risultato è questo. Allora, Avvocato Grassani, non so se vuole tirare subito fuori il cartellino, poi magari parliamo della responsabilità, ma era un fallo d'ammonizione o d'espulsione quello di Oliviero Bene. Cioè, dire tutto il mondo del calcio sa a tutti i livelli, poi è un voler far finta di non sapere. Diciamo che lo spaccato che emerge da quest'ultimo filone di indagine di Vari è uno spaccato di uno squallore e di un profilo talmente basso che secondo me va oltre ogni possibile immaginazione, nel senso che non dimentichiamolo, Bari-Lecce è una partita che non è stata oggetto di flussi di scommesse anomale, quindi è un genere un po' particolare rispetto alla commistione e alla penetrazione della malavita organizzata all'interno del mondo del calcio, nel senso che secondo gli inquirenti quella partita è stata semplicemente, dico semplicemente in maniera amara, oggetto di una corruttela da parte dei dirigenti del Lecce nei confronti di un giocatore del Bari, quindi questo diciamo è un sintomo ancora più preoccupante. Perché dovevano salvarsi, Lecce. Ecco, a questo proposito, entriamo nel tema che io avevo introdotto col termine responsabilità oggettiva. Ci spieghi cos'è attualmente la normativa sulla responsabilità oggettiva, che attenzione, perfino in Parlamento, parlamentari, ci sono i parlamentari tifosissimi di calcio, vogliono cambiare. Innanzitutto io penso che ogni ordinamento abbia gli organi competenti per affrontare tematiche così delicate e così importanti, per cui i parlamentari facciano le leggi, le federazioni, il CONI, l'ordinamento sportivo si farà le sue leggi, per cui è ovvio che siamo in un paese in cui ci sono 60 milioni di commissari tecnici della nazionale, in Parlamento forse hanno qualche problema in più da affrontare che non discettare della responsabilità oggettiva. Comunque veniamo al tema, la responsabilità oggettiva è un baluardo del corretto funzionamento delle competizioni agonistiche in ambito sportivo, è quel principio in forza del quale il comportamento di soggetti tesserati e anche tifosi di una società, qualora sia violativo, illecito e superi il limite della regolarità, comporta anche automaticamente la responsabilità del club. Perfetto, per cui, quindi la società paga per eventuali comportamenti illeciti di un suo giocatore, non si può dire è una mela marcia, no? Ma il fatto stesso di avere tesserato o di avere al proprio interno dirigenti, allenatori, calciatori o anche tifosi che seguono la squadra sugli spalti che violano le norme dell'ordinamento sportivo comporta la sottoposizione della società alle sanzioni previste dal codice. Andrebbe cambiata, so che lei è della posizione di dire assolutamente no, ma perché la vogliono cambiare? Perché qualcuno la vuole cambiare? Per dire isoliamo queste mele marce ma il mondo del calcio è pulito? Non è questo, a mio avviso non è questo il percorso corretto. Se la responsabilità oggettiva venisse sostanzialmente riformata, perché se ci dobbiamo porre su un piano di costruttività e di miglioramento della norma, allora io sono d'accordo. Se dobbiamo scindere invece la posizione dei tesserati, delle persone fisiche rispetto a quella del club, a quel punto ci sarebbe una deregulation, il calcio, lo sport diventerebbe una zona franca in cui il comportamento dei singoli non determinerebbe nessun tipo di conseguenza per i club. E lei si rende conto della giungla, della deregulation che si determinerebbe, certo. Per cui la responsabilità oggettiva deve rimanere, può essere attenuata nel caso in cui il club abbia adottato tutte le misure di controllo e prevenzione possibili e nel caso in cui i propri tesserati abbiano violato le regole non favorendo il proprio club ma in danno del proprio club. A questo punto sarebbe veramente una doppia beffa che il club pagasse e perché i propri dipendenti infedeli l'hanno danneggiata magari vendendosi le partite a perdere e anche perché poi arriverebbero provvedimenti draconiani della giustizia sportiva. In questo caso potrebbe esserci appunto una mitigazione della sanzione, ma la sanzione ci deve essere e la responsabilità oggettiva deve rimanere. Fermiamoci per le informazioni sul traffico, poi vorrei tornare a ripartire da Oliviero Bea, perché giustamente qualche ascoltatore ci manda anche un messaggio a dire: ma insomma, nel Regno Unito, in Gran Bretagna, patria delle scommesse, queste cose non, ecco, dire forse non accadono, forse è un giudizio un po' tranciano, comunque pare che non accadano almeno ai livelli in cui accadono periodicamente e continuativamente in Italia. Perché allora? Da questa domanda ripartiremo tra poco. Allora, 800 24 00 24, se volete intervenire, parliamo di calcio scommesse. Massimo da Siena, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Dica. Io sono un tifoso del Siena. Volevo dire soltanto questo, che comunque sia poi il calcio scommesse lo pagheranno i tifosi, perché vedranno le proprie squadre coinvolte penalizzate e quindi lo pagheranno esclusivamente i tifosi. Sempre che non siano come quelli, pare, del Bari, che nell'inchiesta, insomma, Massimo, si vendevano, ordinavano ai giocatori di vendere le partite, questo secondo l'accusa della procura, quindi tifosi, no, i capi tifosi, hanno ordinato a dire: adesso perdete questa partita perché almeno ci scommettiamo sopra, questo dice la procura, Massimo. Io sono un tifoso normale che come il 99%, cioè, che segue la sua squadra. Cioè, poi è chiaro, anche lì esistono tifosi e tifosi, come tra le tifoserie vengano fatti due pesi e due misure, perché io faccio anche le trasferte, vedo come vengono trattate dalle forze delle tifoserie delle grandi squadre a differenza di quelle piccole. Sì, però due pesi e due misure, sì, non è facile, cioè non è che si può punire metà squadra del Siena, metà la mandiamo in B, dovesse venire fuori uno scandalo perché metà dei tifosi sono puliti o tre quarti sono puliti e un quarto no. Però effettivamente girerei questa considerazione Oliviero Bea, poi magari sulla responsabilità oggettiva vorrei il suo parere, però la questione che l'ascoltatore pone, quello via SMS sul fatto, le scommesse ci sono ovunque, anche in Gran Bretagna, dove non è che leggiamo tutti i giorni di questi scandali come in Italia. La tenuta, diciamo così, della moralità pubblica in Gran Bretagna è leggermente diversa da quella, per esempio, italiana, a partire, non so, da ministri che si dimettono perché hanno preso una multa e hanno attribuito alla moglie il fatto che guidasse la macchina, invece erano... C'è la differenza antropologica, dobbiamo rassegnarci. C'è anche una cultura sportiva che tiene molto di più, da sempre l'antropologia culturale, adesso non uso parolone, diciamo l'abitudine, la tradizione allo sport e al significato dello sport è maggiore, però è molto interessante anche il discorso della responsabilità oggettiva, perché poi su questo terreno si misura il futuro, l'immediato futuro. Ebbene, io non vorrei, paradosso per paradosso, che il problema fosse per i politici che adesso si occupano della questione, che temano che sia per loro in ballo una responsabilità oggettiva e che da Masiello si possa passare ai Lusi, ai Belsito, e per cui sia tutto il partito. Cioè, io metterei una bella responsabilità oggettiva, paradosso per paradosso, i partiti italiani, voglio dire, che facciamo? Li mandiamo in Serie C, mandiamo i partiti in Serie C, li facciamo fallire. Allora, il paese che in questo stato, secondo me, avrebbe un bel segnale di rinascita da questo punto di vista. Però adesso, senza fare giustizialismo i mattinieri, dico solo che almeno c'è da pretendere che la giustizia sportiva e tutti gli organismi dello sport, in questo caso del calcio, facciano il loro mestiere in modo autonomo, indipendente, serio, immediato, pratico, non corrotto, altro che abolire la responsabilità oggettiva. Ragioniamo, in questo ha ragione Grassani al 1000 per 1000, e mi piacerebbe che tutti fossero coerenti come lui per quel che riguarda però le istituzioni sportive, che, come abbiamo visto nello scandalo di 6 anni fa di tutt'altro genere, erano coinvolte. Quindi voglio dire, perché la giustizia sportiva arriva sempre anni luce dopo la giustizia ordinaria nel sapere che il calcio è sporco? Perché c'è qualcosa che non va. Avvocato Grassani, tra l'altro, che cosa potrebbe succedere ora a fine dell'inchiesta? Per esempio, non vorrei entrare in troppi particolari, ma so che per esempio i tifosi della Sampdoria saranno molto arrabbiati perché l'anno scorso la Sampdoria è retrocessa e invece si è salvato Lecce, forse per questa famosa partita. comprata. Non è che però si possano aggiustare sempre le cose, non è che si può tornare indietro col tempo. Cioè c'è un modo per mettere a posto le cose, rimettere tutti i pezzi a posto e fare in modo che tutto si svolga come se non fosse successo niente di irregolare a questo punto? Innanzitutto diciamo che i tempi della giustizia sportiva sono quelli che abbiamo davanti, perché la giustizia sportiva va al traino della giustizia penale, nel senso che la giustizia penale ha strumenti investigativi, coercitivi ed intervento anche nella vita privata dei singoli che la giustizia sportiva non può avere. Pensiamo ai pedinamenti, alle intercettazioni, alle indagini fiscali, alle consultazioni di tabulati telefonici, ai movimenti bancari, per cui per forza la giustizia sportiva arriva sempre dopo che l'indagine penale ha già accertato ipotesi di reato. Poi tra l'altro, come nel caso di specie, quando si tratta di organizzazioni internazionali dedite alle scommesse e all'aggiustamento delle partite, credo che sia fisiologico e logico che questa successione, questa propedeuticità avvenga nel modo in cui sta avvenendo adesso. Dopodiché purtroppo il tempo che passa produce conseguenze immodificabili, nel senso che la classifica del campionato scorso, certo, oramai è intangibile. Il campionato va avanti, non è che si può. Quello che può fare la giustizia sportiva è irrogare nel più breve tempo possibile e nel primo campionato utile successivo a quello in cui le violazioni sono state commesse, sanzioni con il carattere dell'afflittività. Per cui purtroppo nel 2006, se non vogliamo dimenticare quella tristissima, come diceva Bea, anche diversa su altri profili e con altri protagonisti, indagine detta Calciopoli, alla retrocessione della Juventus decretata con un anno di ritardo, conseguì il ripescaggio del Messina, che sì, era comunque retrocesso meritatamente sul campo dalla Serie A alla Serie B, laddove il campionato, diciamo, taroccato era quello precedente, nel quale il Bologna, la squadra della mia città, aveva perduto lo spareggio con il Parma ed era retrocesso. Per cui purtroppo il decorso del tempo non consente di operare retroattivamente rispetto a. Certo, si possono sistemare le cose, diciamo, per il futuro, ma non certo ripescare persone o squadre dal passato. Intanto io vi ringrazio, Oliviero Bea, giornalista, editorialista del Fatto Quotidiano, di cui voglio ricordare ancora Il Calcio alla Sbarra, edito da Rizzoli, e l'avvocato Mattia Grassani, che è uno dei massimi esperti di diritto sportivo, per essere stati con noi. Che dire, ci trovate anche su Twitter @AlinoMilan @24Mattino e ci troviamo domani. Un parlamentare che partecipa a tutte le sedute di commissione, apre un ufficio, riceve gente, mi creda, ha tante di quelle spese per cui lo stipendio che riceve dal Parlamento non gli avanza nulla. Tutti i parlamentari stanno 3 giorni a Roma, io sono al di sopra della media delle presenze. Io dalla mia attività di parlamentare, con i tagli ultimi, se va bene, riesco a prendere 300 euro. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna, noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire.